in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. E cominciamo come sempre dal Corriere della Sera, che ha un titolo diverso dagli altri, legato a un'intervista al generale Graziano, che è il capo di Stato Maggiore. Il tema è quello dei migranti e soprattutto della famosa possibilità, di cui si parla tanto, di bloccare le navi prima che partano dalla Libia. Nei giorni scorsi abbiamo visto per esempio che tanti barconi vengono, in effetti si riesce a bruciarli prima che partano, ma questo del blocco navale è ancora un'ipotesi diversa. Il generale Graziano, in questa intervista data ad Alto Cazzullo, sintetizza: l'emergenza si può controllare, noi siamo pronti, noi naturalmente come Marina Militare. C'è un accenno anche all'intervento del presidente Mattarella, che ieri è tornato sul tema del ruolo dell'Europa dicendo: serve più aiuto all'Europa. Ma la fotonotizia dedicata alla manifestazione di cui avete sentito parlare nei GR, ma anche nei TG nei GR di ieri, quella che si è svolta a Roma, la manifestazione il Family Day, quindi a sostegno della famiglia tradizionale contro unioni civili e gender, che in inglese significa semplicemente genere, poi è nata tutta una teoria del gender dove appunto i confini tra femminile e maschile dovrebbero essere sempre più labili, e questo viene contestato dai manifestanti. La cosa strana è che normalmente ci sono sempre i due dati, quelli degli organizzatori e quelli della questura. Io ho trovato semplicemente quello degli organizzatori, che asseriscono di essere stati 1 milione. Ci sono molti commenti, mi ha colpito in particolare quello, il piccolo pezzo che viene riportato in copertina di Pierluigi Battista, e ve lo leggo. Si chiama Il fronte inaspettato del rifiuto e inizia così: parte del mondo cattolico ha manifestato la sua disperazione culturale per un modo di vedere le cose, il demonizzato, tra virgolette, gender, che, e qui le virgolette non ci sono, quindi non si capisce se è il pensiero di Battista, che a me sembrerebbe veramente strano, o appunto un virgolettato tratto dalla piazza. Comunque le parole sono queste: il demonizzato gender, ripeto, gender tra virgolette, chiuso le virgolette, che sradica l'umanità da se stessa. È stata fornita un'immagine implicitamente polemica verso l'atteggiamento accomodante del Papa, e poi tutto l'articolo lo trovate a pagina 29. Ma vi segnalo anche, e se avremo tempo lo vedremo nel dettaglio, un'inchiesta di 2 pagine, pagina 14 e 15 richiamata in prima pagina, di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella sul degrado di Roma. Si intitola Le case in affitto a 7 euro. Vi leggo la prima parte perché è abbastanza così sorprendente. Scarica barile del sindaco di Roma, due punti aperte virgolette: la mia giunta non ha assegnato neppure una casa, si trova a gestire le sciagurate, vergognose e lottizzatorie pratiche che avvennero nei tempi passati, chiuse le virgolette. Direte: uffa, il solito Ignazio Marino, brava persona, però, ma che? Lo sfogo è di Francesco Rutelli, esattamente 20 anni fa, 1995. Ricorderete che Francesco Rutelli è stato sindaco di Roma per 2 mandati, appunto, in quegli anni. Ed è questo che fa montare il sangue alla testa. Passano gli anni, passano i sindaci, passano le stagioni politiche di destra e di sinistra, e il patrimonio immobiliare del Campidoglio resta sempre e comunque lo stesso colabrodo, ed è sempre colpa di quelli venuti prima. E come vi dicevo, in realtà è un'inchiesta di 2 pagine che dopo magari vedremo meglio. La Repubblica sceglie di aprire sulla questione greca. Sapete che questo è un weekend probabilmente ancora di molti preparatorio a quello che dovrebbe essere il vertice forse decisivo di lunedì, in cui appunto l'Unione Europea decide se sbloccare alcuni aiuti. Angela Merkel dovrebbe ancora una volta dire più chiaramente come la pensa, come del resto le ha chiesto di fare il ministro delle finanze greco Varoufakis, che le ha detto appunto: Merkel dia un segnale. Domani c'è questo vertice che viene definito decisivo, e un po' come la settimana per le settimane per l'abolizione delle province, di cui parla sempre Alessandro Milan, che appunto poi non sono mai decisive, però insomma tutti sono concordi nel dire che ormai il tempo veramente stringe, tant'è che questo vertice, quello di domani, non era previsto, è stato indetto proprio per cercare finalmente di trovare una soluzione. La fotonotizia anche qui è alla manifestazione di ieri, il commento è di Chiara Saraceno e si intitola Lo spettro gender. La prima pagina del Sole 24 Ore è dedicata alla Grecia, il titolo principale è quello: Grecia UE, lo scontro brucia 1.000 miliardi, perché sappiamo che questa Grexit, cioè l'uscita della Grecia dalla zona euro, non dall'Unione Europea, anche se alcuni addirittura pensano che potrebbe succedere quello, però potrebbe, si dice, causare un grave danno, perché le banche sono molto esposte, le banche europee, ma in realtà ci spiegano i colleghi di finanza, in realtà c'è comunque un rischio, anche se non ci fosse la Grexit. Brexit, aiuti o default, l'ultimo round domani a Bruxelles, lo scontro ha già bruciato 1.000 miliardi, perché 600 miliardi sono stati persi in borsa e 385 sui titoli di Stato. C'è poi uno schema che fa vedere l'effetto Grecia sui mercati in aprile, in maggio e in giugno. Come ogni settimana all'interno del Sole 24 Ore, richiamato in prima pagina la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che si concentra su un titolo quotato, questa volta è una banca, Credem, internet e risparmio gestito per crescere stand alone, cioè da soli, senza alleanze, senza magari far entrare gruppi stranieri. Trovate poi tutti i dettagli a pagina 18. Il Messaggero a sua volta apre sulla Grecia, il titolo è Spiragli per l'accordo e si evoca appunto questo vertice, anche qui definito decisivo, per evitare il default. Default in questo caso non è tanto la conseguenza delle trattative con l'Unione Europea, ma con il Fondo Monetario Internazionale, perché se la Grecia non restituisce il mega gigantesco prestito con il Fondo Monetario Internazionale, appunto va ad aggiungersi al club di chi questa esperienza del default l'ha fatta. Il caso più eclatante è sicuramente quello dell'Argentina, cioè un debitore che non paga i suoi debiti e quindi appunto si dice va in default. Ma ci sono stati ancora, richiama il Messaggero, tanti contatti e probabilmente ce ne sono proprio anche oggi, non magari adesso mentre stiamo parlando, adesso forse è ancora presto, però oggi sicuramente sarà una giornata di contatti, telefonate, come ce ne sono stati ieri tra il Premier Tsipras e Juncker, presidente della Commissione. Il Messaggero ovviamente ha una fotonotizia sul Family Day, ma anche in prima pagina la notizia che la Giunta Marino perde pezzi. Sapete che se n'è andato l'assessore Guido Improta, che era assessore al bilancio e assessore alla mobilità, e ora anche Silvia Scozzese, che invece è assessore al bilancio, sarebbe pronta all'addio. Sono entrambi del PD, quindi un segnale forse di quel mancato sostegno di Renzi, o comunque quel sostegno di Renzi che sta venendo a mancare. La Stampa, fotonotizia anche qui della manifestazione di ieri, il titolo In piazza contro le nozze gay. Ecco, qui La Stampa parla di 400.000 persone, quindi vedete, i dati sono un po' contrastanti. E poi richiama in prima pagina, oltre alla vicenda greca, un aggiornamento sulla scuola, perché sapete che anche sulla scuola si sta molto discutendo. Quello che ha ribadito Renzi è quello che ad alcuni è sembrato un po' un ricatto, cioè le famose assunzioni dei precari vengono fatte solo se passa tutta la riforma. E allora titola il Messaggero, la Stampa, che poi approfondisce la questione a pagina 4, il Premier prepara un maxi emendamento, perché sapete che quelli presentati sono 3.000, pensate, un Parlamento che deve esaminare 3.000 emendamenti prima di far passare una legge, e a questo punto invece Renzi penserebbe di accorparli e poi votare la legge con la fiducia. L'Avvenire, pensate, non ha una fotonotizia come magari uno penserebbe sulla manifestazione, ma mette la notizia di spalla con una piccola foto, una foto normale, perché invece la fotonotizia è dedicata alla visita di Papa Francesco, avete sentito, a Torino, che dura anche oggi, tanto che abbiamo sentito le notizie del traffico, Torino un po' bloccata. Ieri ha visitato la Sindone, Francesco, perché è in un periodo di ostensione appunto la Sindone, due intensi giorni a Torino per Don Bosco e con i giovani, Francesco alla Sindone, una visita ecumenica. Ma il titolo principale è una battaglia di lunga data dell'Avvenire, quella contro il gioco d'azzardo, contro la diffusione delle slot machine nei bar, per esempio, e c'è finalmente una bozza di decreto legislativo che riordina questo settore, ma secondo l'Avvenire è un po' un bluff, perché in realtà non è quello che molte associazioni che cercano di arginare questa diffusione del gioco d'azzardo, diciamo legalizzato, e poi tra l'altro sappiamo che lo Stato ci guadagna anche molto in tasse, ma che soprattutto è un modo per spingere molte persone verso quella che è una vera e propria malattia, cioè la dipendenza da gioco d'azzardo. Quindi c'è questo doppio aspetto: lo Stato che da una parte offre qualcosa che è potenzialmente molto nocivo, allo stesso tempo ci guadagna. E quindi l'Avvenire titola: la lotta all'azzardo è un bluff del governo, resta la pubblicità e meno poteri alle regioni. Il Giornale, Renzi cambia famiglia, naturalmente legato un po' alla manifestazione di ieri, 1 milione di persone al Family Day, per il governo è inaccettabile. In realtà nessuno del governo ha detto questo, è stato Ivan Scalfarotto semplicemente a dire che è inaccettabile, il governo non ha usato questo termine, ma insomma il Giornale lo mette nel titolo di prima pagina. E poi vi leggerò, dopo la pausa per il meteo, un pezzo editoriale di Ostellino, che anche questo mi lascia come sempre un po' sbigottita, e che si intitola Perché il Papa può fare di più per difendere la nostra civiltà. Quando caldo e sudore ti spossano, su con Sustenium Magnesio e Potassio e Menarini. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Dicevamo la questione del Family Day, vi avevo letto le prime righe dell'editoriale di Pierluigi Battista sul Corriere che diceva è stata fornita un'immagine implicitamente polemica verso l'atteggiamento accomodante del Papa. Ecco, sul giornale, che è abbastanza usuale che attacchi un po' il Papa o che sia appunto in polemica con il Papa, in generale questo ruolo è affidato a Magdi Cristiano Allam, oggi invece ci pensa Ostellino. Vi leggo le prime righe del suo editoriale, che poi continua a pagina 2 e che vi dicevo si intitola Perché il Papa può fare di più per difendere la nostra civiltà. Il Papa, che ricordiamo, oggi è a Torino per una visita appunto alla città. Ad aumentare la confusione e gli equivoci già tanto numerosi della nostra cultura politica, collettivista e dirigista, frutto del ridicolo e equivoco compromesso costituzionale del 48 che ha cercato di conciliare democrazia liberale, capitalismo e socialismo reale, allora molto di moda, mancava solo, leggo testualmente, un papa ecologista e nemico della finanza, che è poi il fondamento del capitalismo. Se questo gesuita, che ci ridurrebbe volentieri alla condizione dei paraguayani cui i gesuiti colonizzatori avevano insegnato a mangiare e assolvere altre funzioni all'interno di un'organizzazione sociale collettivista e dirigista solo dopo che era suonata la campana manovrata dagli stessi gesuiti, chiuse il trattino, credesse davvero nel messaggio di Cristo e non solo nel potere politico della Chiesa come istituzione, si preoccuperebbe, invece che dei poveri dei quali già si preoccupano le democrazie liberali e capitaliste con lo Stato sociale, dei cristiani perseguitati e massacrati nei paesi islamici. Questo è il ritratto che Piero Ostellino fa di Papa Francesco. E comunque poi continua, lo leggete, lo potete leggere appunto a pagina 2 del giornale. Passiamo alla prima pagina di Libero, che invece ha un risvolto, devo dire, interessante se volete, sulla questione delle tasse che abbiamo pagato pochi giorni fa, quelle sulla casa. Il titolo è Evasori fiscali. Chi sarebbero? Sull'imposta sui rifiuti c'è un buco da 28 milioni e così si scopre, lo hanno scoperto i giornalisti del giornale e ce lo spiegano, che Presidenza del Consiglio, Ministeri, Camera, Agenzia delle Entrate sono i primi a non pagare le tasse di questo tipo e c'è quindi una contraddizione, naturalmente saranno vecchi accordi, vecchie leggi e però intanto appunto noi dobbiamo pagare tutte queste tasse e si scopre invece che per esempio il Libero poi gioca un po' sull'istituzione ma su chi la guida, quindi mette le cinque foto di Matteo Renzi, per Carlo Padoan, Laura Boldrini, Angelino Alfano e Rossella Orlandi, appunto Premier, Ministro dell'Economia, Presidente della Camera, Ministro dell'Interno e Presidente dell'Agenzia delle Entrate e ci dà le cifre che sono enormi, pensate per esempio appunto il Ministero dell'Interno non paga tasse per 3,4 milioni di euro, quindi insomma noi le paghiamo ma alcune istituzioni sono esentate. La prima pagina del Fatto Quotidiano è dedicata ai sondaggi, sapete abbiamo settimana scorsa ci sono stati ballottaggi nei comuni con alcune pesanti sconfitte per Renzi e il PD come quella di Felice Casson a Venezia e adesso fioriscono i sondaggi e il Fatto Quotidiano spiega Renzi crolla, il Movimento 5 Stelle insegue, nelle intenzioni di voto, cioè se si dovesse votare oggi, il PD è al 32,2%, un anno fa, lo ricorderete dopo le famose europee, c'era stato quel sfondamento della soglia del 40% e 40,8%. 5 Stelle volano al 26,1%, corteggiati da tutti perché a livello locale ormai sono forza di governo. Il titolo dedicato alla manifestazione di ieri, molto polemico, risorge la destra bigotta. La prima pagina del messaggio del manifesto, un titolo completamente diverso, la foto è quella di un migrante di quelli che il manifesto definisce abbandonati da una settimana sugli scogli di Ventimiglia, naturalmente la vicenda la conoscete e il titolo è Estate, tutto attaccato fuori, quindi un gioco di parole, naturalmente estate perché oggi 21 di giugno, primo giorno d'estate. Vi cito il titolo della Gazzetta dello Sport, avete sentito la notizia anche nel GR che ovviamente essendo finito il campionato è un po' tutta dedicata al calciomercato e allora il titolo è Inter scatenata perché Sofia e Rossoneri del Monaco, Kong Dogbia, questo giocatore francese di origine centrafricana per 40 milioni, e Toir, che sapete, il nuovo proprietario proprietario dell'Inter dopo che per tanti anni lo era stata la famiglia Moratti, può regalare a Mancini pure Imbula de Marsiglia. E poi naturalmente all'interno tantissime altre notizie di calciomercato. Passiamo un po' alle pagine interne invece degli altri quotidiani. Vi dicevo, l'intervista che dà il titolo al Corriere della Sera, che è quella a Claudio Graziano, che è capo di Stato Maggiore della Difesa, lo ha intervistato Aldo Cazzullo, che per esempio gli ha chiesto: gli sbarchi continuano, si invoca un blocco navale, cosa ne pensa? E il generale risponde: un blocco navale in assenza di una risoluzione ONU o della richiesta del paese interessato è un'azione di guerra. Quindi questo per chiarire che appunto quando si parla di blocco navale lo si fa con molta leggerezza, però tecnicamente questa è appunto un'azione di guerra, come a volte i commentatori più o gli esperti che vengono interpellati, che sono davvero degli esperti, hanno cercato di spiegare. Poi però vince sempre il titolo, la dichiarazione: facciamo il blocco navale. Sì, ma in teoria appunto un blocco navale contro la Libia, se non lo fa l'ONU, è un'azione di guerra. Si fa contro un nemico, sarebbe controproducente. Siccome in nessun caso viene meno il dovere di salvare le vite dei naufraghi, i barconi punterebbero contro le navi del blocco. Altra domanda di Cazzullo: ora l'Europa prepara una nuova missione che dovrebbe avere appunto un mandato ONU, ma secondo lei è possibile chiudere la rotta di Lampedusa? E il generale risponde: attendiamo di conoscere i contorni della missione. Credo sia possibile un'operazione di contrasto che punti a inabilitare i barconi e a perseguire i criminali. Si può assumere il controllo della situazione. Certo, quella che vediamo è l'avanguardia di un fenomeno epocale che riguarda decine di milioni di uomini in fuga da carestie e guerre. Non è più un problema militare, ma globale. La Libia è il collo di bottiglia di flussi che partono dall'Eritrea, dalla Somalia, dal Chad, dalle repubbliche centrafricane, dal Kenya e dalla Siria. Poi vi dicevo l'inchiesta di due pagine, l'ho trovata a pagina 14 e 15 sul degrado di Roma, in particolare tutto quello che riguarda il patrimonio immobiliare del comune, sempre sul Corriere. E mentre sulla Repubblica un approfondimento su Putin. Sapete che tra l'altro Putin potrebbe avere un ruolo nella crisi greca, perché due giorni fa ha come fatto una specie di apertura, ma non si è capito se era un po' un jolly lanciato lì sul tavolo dei negoziati, oppure se veramente sia intenzionato ad aiutare la Grecia, perché sarebbe appunto una novità, una variabile che non si poteva prevedere. Ieri però, siccome la Svezia potrebbe entrare nella NATO, la Svezia è molto vicina alla Russia e a Putin questo non piacerebbe, ieri ha dichiarato: punteremo i missili contro la Svezia, Mosca minaccia un'escalation nucleare se Stoccolma entrerà alla NATO. E l'analisi di Mikhail Khodorkovsky, che sapete è l'ex un oligarca che aveva fatto carriera con Yeltsin ma poi cadde in disgrazia con Putin, fu addirittura arrestato nel 2003 e liberato 10 anni dopo nel 2013, ora vive in Svizzera ma continua ad attaccare Putin. Questo intervento, che è apparso sull'Atlantic Council di Washington ed è stato tradotto da Repubblica, si intitola "Il nemico esterno creato da Putin per nascondere i suoi fallimenti". E poi vi segnalo un interessante approfondimento di Vittorio Zucconi su quel fenomeno tutto americano che noi conosciamo pochissimo e che forse ci sembra anche difficile da comprendere, appunto legato a questa strage che c'è stata, lo sapete, nella chiesa di Charleston, con questo ragazzo giovanissimo che ha ucciso 9 persone dicendo, poi proclamando addirittura di voler scatenare una guerra razziale. E Vittorio Zucconi ci racconta di questi cosiddetti lupi solitari cresciuti nel mito della supremazia bianca. C'è una mappa che fa vedere come siano quasi 800 i gruppi che si ispirano, pensate, al Ku Klux Klan negli Stati Uniti, e sono un incubo per l'America di Obama. Vengono genericamente definiti i suprematisti bianchi e sono appunto neonazisti, nazionalisti bianchi, skinhead nazisti, e pensate che rispetto al 2000 questi gruppi sono il 30% in più. Veramente una mappa impressionante di questo fenomeno poco conosciuto soprattutto qui in Europa. Ma vediamo le pagine interne del Sole 24 Ore, perché spesso dico che ci perdiamo un po' per strada le notizie. Ricorderete sicuramente il tanto annunciato accordo con l'Iran per finalmente togliere l'embargo di qualche mese fa, e adesso Alberto Negri torna sull'argomento e ci spiega l'accordo che ancora non c'è, perché di fatto scade il 30 giugno il termine per formalizzare quello che c'era stato solo un compromesso firmato a Losanna sul nucleare. E allora Alberto Negri ci riepiloga, con tutta l'esperienza che lui ha di queste questioni, quanto siano complesse le trattative con Teheran, e sul fatto che Teheran appunto insista, prima di procedere con la distruzione di degli arsenali che è accusata di avere, che vengano rimosse le sanzioni economiche. Infine, siccome a Milano in questi da ieri ci sono le sfilate della moda uomo, trovate naturalmente le foto dappertutto, ma c'è questa cosa un po', se volete, strana, che in realtà adesso in passerella ci sono i vestiti della primavera estate del 2016, quindi cose che noi non vedremo nei negozi prima di molti mesi. Questo è un po' straniante. E allora, più che appunto le novità che tanto non possiamo comprare, vi segnalo pagina 16 del Sole 24 Ore l'analisi di Paolo Bottelli dal punto di vista economico della moda, perché spesso noi al Sole 24 Ore ce ne occupiamo da questo punto di vista, che si intitola La certezza dell'export e grazie ai turisti. E vi sintetizzo, è un po', dice che insomma gli imprenditori che ha sentito ieri andando in giro per il primo giorno di sfilate soprattutto hanno detto questo, cioè che ancora in Italia il mercato interno non si riprende e che chi va bene va bene perché va bene sui mercati stranieri. Ci lasciamo un attimo per le informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della nostra rassegna. Guardiamo ancora un attimo alcuni articoli dalle pagine interne, poi passiamo ai supplementi della domenica. Abbiamo parlato tanto di Grecia, si è detto che potrebbe avere delle conseguenze anche sul turismo della Grecia. Sulla Stampa, a pagina 3, Giulia Zonca ci racconta come in realtà hotel e traghetti siano pieni, e in questo reportage da Folegandro, su una delle isole che viene definito il paradiso che non conosce crisi, spiega che gli albergatori sanno che guadagneranno di più in quest'estate, probabilmente perché anche i prezzi sono scesi, però e l'opinione raccolta da Giulia Zonca è: noi vogliamo restare nell'Unione Europea e magari anche nell'euro. Segnalo sempre dalla Stampa un'intervista a Monica Cirinnà, che è la senatrice autrice del disegno di legge sulle adozioni alle coppie omosessuali, che è una delle questioni che ha animato la manifestazione di ieri, il Family Day. Le chiede Ilario Lombardo: le sono fischiate un po' le orecchie, senatrice? E lei risponde: più che altro ho sentito tanti voodoo. Monica Cirinnà è il nome che riecheggia in ogni angolo di Piazza San Giovanni, dove si è tenuta la manifestazione ieri a Roma. Sui cartelli è scritto a caratteri cubitali il no al disegno di legge che porta il suo nome, quello che introdurrà in Italia le unioni civili e le stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio del proprio partner. Chiede Lombardo: senatrice, ha visto la piazza? Quanti erano? Circa 500.000, anche qui continua il balletto delle cifre. Bene, quanto il Gay Pride allora? Lo scriva pure, questa piazza mi dà una forza ulteriore, mi convince che tutti noi, il PD, i senatori, il Premier Renzi, siamo nel giusto. Non vogliono il suo DDL. Io ero a Milano, al padiglione USA dell'Expo, a un evento LGBT, cioè della comunità di lesbiche, gay, transgender, bisexual. Poi sono andata a Genova con le famiglie Arcobaleno a presentare un libro di un papà con tre figli e un compagno. L'Italia che cammina a testa alta era lì, a Milano e a Genova, quella medievale a Roma. Parole forse un po' troppo forti, che sicuramente non favoriscono il dialogo. Ma passiamo, come dicevo, ai supplementi culturali che ci tengo a segnalare, appunto visto che è domenica e magari si ha un pochino più di tempo per leggere. Iniziamo naturalmente dalla domenica del Sole 24 Ore, con il breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola Il racconto, e la citazione è un detto rabbinico, che è questo: Dio ha creato gli uomini perché egli, benedetto sia, ama i racconti. Questo folgorante aforisma giudaico, scrive Ravasi, giustifica il fatto che la Bibbia sia una costante sequenza narrativa. Altro che storytelling, aggiungo io, che è questa parola abusata di recente, anche perché alla base è una storia della salvezza. Anzi, questo detto rabbinico sembra anticipare la convinzione di Elia Scanetti, che considerava le voci degli uomini come il pane di Dio. Non per nulla il Dio biblico ha un orecchio attento a raccogliere racconti umani tristi e gioiosi, e persino le provocazioni di chi non crede in lui. Mi ha sempre impressionato il terribile racconto di Chekhov intitolato Malinconia. Il vetturino Iona è così povero e solo da implorare ai clienti un attimo d'ascolto. A chi racconterò la mia tristezza? Purtroppo, come a lui, a molti accade di non aver più nessuno che ascolti il racconto della propria vita, del dolore e delle attese. Il semplice narrarsi sarebbe una liberazione, e l'ascolto altrui un dono d'amore. La copertina è dedicata a una a un evento che ci sarà alla Cineteca di Bologna, dove verrà proiettato un lungometraggio sui campi con la consulenza di Hitchcock, che notò come lo scorrere sereno della vita che si svolgeva intorno ai luoghi dei massacri. Il titolo 1945, incredulo film dell'orrore. Sapete che ci sono molti studi su questo, su come sembri impossibile che tutte le persone che vivevano intorno ai campi di sterminio o non sapessero o facessero finta di non sapere. Il memorandum di Roberto Napoletano, il nostro direttore, il nostro Sole 24 Ore di Radio 24, intitolato Quella scuola di medicina e umanità del Gemelli, dove racconta un'esperienza molto personale avuta appunto in questo ospedale e di quanto, per quanto la nostra sanità abbia sicuramente dei problemi, quanta umanità ci sia tra i medici e in particolare questi che lo hanno curato appunto all'ospedale Gemelli. La lettura del Corriere della Sera, la copertina è di Ugo Guarino, un bellissimo disegno che sembra un po' infantile, ma naturalmente come tutte le cose che sembrano poi in realtà forse non lo sono. E all'interno vi segnalo una recensione, possiamo dire una recensione vecchio stile, cioè molto lunga, come del resto spesso ci sono anche sul Domenicale, questa volta non a un libro ma alla sceneggiatura del prossimo film su Steve Jobs. Sapete, ce n'è già stato uno con il protagonista Aaron Kuchner, non ha avuto molto successo, adesso ne arriverà un altro. La sceneggiatura è di Aaron Sorkin, che è uno dei più famosi sceneggiatori soprattutto per la televisione americani. Allora, il titolo della recensione di Matteo Persivale, che ha letto in anteprima questa sceneggiatura, è Biografia di un rivoluzionario in tre atti, sembra Aristotele ma è Steve Jobs. E poi due pagine dedicate invece ai libri, alle biografie sugli sportivi, secondo me ottima lettura per l'estate. Quello a cui viene dato più spazio con una recensione di Marco Imarisio è la biografia di Michael Jordan, scritta da Roland Lazenby, e intitolato Immenso Michael Jordan, anche se non è il più amato, naturalmente parliamo del campione di pallacanestro, ma poi anche tantissimi altri usciti più o meno di recente su Michael Phelps, il grande nuotatore, o su una biografia che parte da Ingmar Stenmark e poi parla della valanga azzurra, e poi naturalmente la biografia di Roger Federer, il grande tennista. A proposito di gay, dell'omosessualità, delle unioni civili, vi segnalo l'intervista della domenica sul Fatto Quotidiano, che viene quasi sempre fatta da Malcolm Pagani, a un personaggio dello spettacolo, su due pagine, sono quelle belle interviste lunghe. Questa volta il protagonista è Paolo Poli, che è forse lo conoscete tutti, insomma un grandissimo teatrante che sulle scene soprattutto teatrali, lui ha fatto pochissima televisione e quasi niente cinema, e vi leggo alcune domande perché torniamo un po' sulla questione dei gay. Lui è gay dichiarato, lo è sempre stato, forse non aveva mai fatto coming out quando insomma in tempi in cui non si usava nemmeno la parola, però credo che non ci siano mai stati dubbi. E allora chiede il Malcolm Pagani: il cinema era un'occasione utile agli amori di contrabbando? E Paolo Poli risponde, che è sempre molto autoironico: ero bello, ero giovane, non avevo bisogno di espedienti, però una volta in un cinemetto dei preti ho visto un signore con la chiusura lampo al contrario, ce l'aveva sul buco del sedere e in piedi senza scomporsi lo prendeva da dietro, stratagemma geniale. E chiede Malcolm Pagani: in certe epoche l'omosessualità era costretta al buio di una sala? E Paolo Poli risponde: i miei amici finocchi si sposavano tutti, la famigliola ordinata, le foto, i passeggini, l'utilitaria, il televisore al centro del salone, poi li incontravi in stazione in strani orari e in vesti più colorate vicino ai cessi. A Firenze il più famoso lo chiamavano Latrin Love. Eravamo sei fratelli, l'unico che ha trombato senza fare i figlioli sono io, non me ne pento, si morde e si fugge. Naturalmente esagerato, abituato alle provocazioni, però insomma fa capire come forse tutte queste questioni in realtà in Italia esistano da tempo, e come ci siano anche tante contraddizioni quando si parla di famiglia tradizionale o la si dà per sempre comunque l'unico luogo dell'amore corretto, dei rapporti corretti, forse a volte non è proprio così, ma comunque tutti spunti per riflettere. E come appunto, come dicevo prima, sarebbe auspicabile senza dichiarazioni così forti di un fronte contro l'altro. Il supplemento del Messaggero Macro è invece dedicato a un interessantissimo approfondimento sulla Corea, di cui si parla tanto perché la Corea del Sud è un paese che per esempio tra l'altro sta crescendo molto come destinazione del Made in Italy, quindi anche importante dal punto di vista economico per noi. Allora capiamolo meglio. Il titolo è Il paese dell'infantilismo, e in questo reportage Cristian Martini Grimaldi ci spiega come Ci sono 50% dei sudcoreani over 60 vive ancora con i figli. Il tasso di crescita dell'economia è del 3%, che è altissimo rispetto al nostro, quindi apparentemente la Corea è un paese florido, però i salari sono aumentati solo dell'1% e ha tra l'altro un debito molto alto, perché la percentuale del PIL raggiunta dal debito è dell'80%, quindi anche qui un paese pieno di contraddizioni, in una appunto da una parte apparentemente florido dal punto di vista economico, ma poi anche con tanti altri problemi, tra cui per esempio c'è quello del sovrappeso che è molto diffuso anche lì come in tanti paesi floridi. La copertina della domenica della Repubblica è dedicata invece a un approfondimento di Roberto Saviano su Mafia Capitale, che poi trovate anche in altre due pagine. Molto divertente questa analisi di Francesca Caferri sull'umorismo, sui fumetti, sui comici, sulle trasmissioni televisive laddove sono permesse in Medio Oriente, appunto comiche, satiriche. Anche gli arabi ridono, la satira politica ai tempi di al-Baghdadi, al-Sisi e al-Assad. Poi vi segnalo un bellissimo articolo di Maurizio Crosetti su un'intervista a Tiziano Ferro, che sapete ha iniziato il suo primo tour negli stadi. Vi leggo solo questo virgolettato. Tiziano Ferro dice: io ascolto tanto, non sarei capace di scrivere se non lo facessi, cerco di non sottovalutare nessuno e di non giudicare. Scrivere mi ha sempre fatto solo bene, anzi mi ha proprio salvato. Il diario, le canzoni, il lavoro cominciato con l'urgenza dell'analisi e della terapia e poi continuato perché mi piace, mi serve come mantenimento. E poi l'intervista della serie Straparlando, aspetta, quella su due pagine con il bellissimo ritratto di Riccardo Mannelli, questa volta è fatta da Antonio Gnoli, come sempre, a Sergio Donadoni, che è un grande egittologo che ha compiuto 100 anni. Io spero di arrivarci con la lucidità di questo grande intellettuale. Il tempo però è scaduto, vi segnalo veramente tantissimi approfondimenti da leggere oggi. Ringrazio Peter Vescapè in regia. Una buona domenica da Giulia Crivelli.